Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ma partiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Eccoci qua dopo la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Andremo avanti fino alle ore 21:30, oggi 17 ottobre 2024, quindi diretta totale, ma ora andiamo con l'ascolto di questa band. È una band statunitense, anche se i loro testi sono cantati, insomma i loro brani sono tutti in spagnolo, probabilmente il cantante avrà un'origine, non lo so, diciamo messicana, comunque latinoamericana. E loro sono dall'Oregon, da Portland esattamente. Loro sono i Destripados e questo è il loro album datato 2018 che si chiama Gutless. Sì, ciao a tutte e a tutti. E allora, questa sera si voleva provare a fare così una carrellata, diciamo, di pensieri sulla cosiddetta società civile dello Stato di Israele, a partire da alcune letture, diciamo, documentarie, storico-teoriche, e altre invece più narrative, c'è di mezzo anche un fumetto, ma partiamo da un libro che è stato presentato a Udine domenica scorsa, un libro di Maya Wind, che è una accademica che è israeliana, che però ha dovuto tagliare la corda perché praticamente le stavano rendendo la vita impossibile. Un libro del 2024 che parla, il titolo è Torri d'avorio ed acciaio, come le università israeliane sostengono l'apartheid del popolo palestinese, edizioni Allegre. È un libro interessante perché attraverso un apparato documentario molto approfondito, ma poi leggerò quello che Maya Wind stessa dice della sua ricerca, e ripercorre un po' tutta la storia delle università israeliane, della loro complicità, del loro coinvolgimento nel progetto di colonialismo, di insediamento, e addirittura un'azione, diciamo, di oppressione del popolo palestinese da parte delle università, che inizia prima, addirittura prima del 48, quindi prima della costituzione, diciamo, formale dello Stato di Israele. E comunque in questo libro si analizzano tanti aspetti, dal ruolo, diciamo, dei dipartimenti, non solo di quelli tecnoscientifici implicati più direttamente con la ricerca militare e, diciamo, militare e in generale delle tecnologie di controllo sociale, ma anche parla anche molto dei dipartimenti umanistici, nello specifico le facoltà i dipartimenti e le facoltà di archeologia, di giurisprudenza e di studi sul Medio Oriente, che vengono appunto tutte discipline, insomma, istituti che piegano le discipline, distorcono in un certo senso le discipline in modo da legittimare sotto vari aspetti, insomma, il regime colonialista. Allora ci dice Maya Wind che nel 48 una cosa importante, quando le milizie paramilitari sioniste entrarono in Gerusalemme, il primo luogo che fu saccheggiato, quindi ci fu un furto, fu proprio la Biblioteca Nazionale palestinese. E quindi la Nakba, la catastrofe per il popolo palestinese, comincia proprio con i libri e con il furto da musei e biblioteche. In parte questi oggetti di furto, insomma, furono distrutti, in parte però, in gran parte, furono integrati negli archivi israeliani e furono etichettati in questi archivi come proprietà degli assenti o dei presenti assenti. Gli assenti e i presenti assenti sono delle categorie burocratiche create ad hoc, diciamo, dal neonato Stato di Israele per legalizzare la confisca dei beni palestinesi. Chiaramente categorie burocratiche che sono ovviamente delle categorie politiche, insomma. E difatti il discorso è che il colonialismo di insediamento del quale lo Stato di Israele è un avamposto, e prevede lo svuotamento e la distruzione dei villaggi palestinesi, appunto, l'eliminazione, il soffocamento e l'oblio dell'identità culturale, politica e sociale dei colonizzati, la cancellazione della produzione saggistica, letteraria, scientifica, geografica, eccetera. E difatti ci fu anche il furto di mappe della Palestina storica, furto che avvenne ai danni dell'OLP nei suoi archivi a Beirut, perché appunto distruggere la mappa della Palestina storica e quindi il ricordo, diciamo, la testimonianza dell'esistenza, della collocazione dei vari insediamenti, paesi, villaggi, città, eccetera, aree agricole anche appartenenti al popolo palestinese, la cancellazione di questo significava una legittimazione del popolo senza il popolo senza Stato per uno Stato senza popolo, no? Cioè che occupa uno Stato senza popolo, appunto la Palestina, il motto, diciamo, sionista. appunto tutti questi studi, insomma, dimostrano che la sostituzione della popolazione indigena con quella di occupazione non necessita solamente di violenza militare, di esercito e nemmeno solo di potere economico, ma di tutta una rete di entità operative diverse. Ad esempio un insieme di leggi che legalizzi la confisca, una macchina amministrativa e burocratica che la implementi, un sistema giudiziario che la avvalli, una narrazione, quindi anche un immaginario che la legittimi. E quindi appunto ci dice Maya Wind in questo libro Torri d'Avorio ed Acciaio che l'università israeliana, ben prima del 48, era una pioniera della colonizzazione, promotrice della confisca di terre palestinesi a favore dei campus israeliani, al servizio del processo di legittimazione dell'ideologia politica nazionalista, appunto come dicevo prima, non solo facoltà scientifiche o tecnoscientifiche, ma anche umanistiche, come archeologia, giurisprudenza, cultura del Medio Oriente. Allora, il libro, poi diremo ancora, ha anche un epilogo che parla proprio di quella che è la storia delle università accaparatrici di terre dei popoli indigeni, dagli Stati Uniti al Canada, all'Australia, alla Nuova Zelanda, al Sudafrica. E diciamo che in questa tecnica di università come accaparatrice di terre indigene gli stati anglosassoni sono maestri. E c'è anche quindi questo epilogo che riguarda non solo lo Stato di Israele, ma anche altri territori. E diciamo, il libro poi va a parare magari anche delle prese di posizione che personalmente, ma insomma anche mi sento di dire anche collettivamente da un punto di vista anarchico, non sono condivisibili. Però nonostante questo, una cosa che viene, che in questo libro viene evidenziata senza peli sulla lingua, è il fatto che dopo il 7 ottobre 2023 il velo, diciamo, la copertura, l'ipocrisia che celava la natura dell'Accademia israeliana è stato squarciato, perché la violenza contro studenti e docenti palestinesi, sospesi, arrestati, minacciati di morte, con appunto dormitori presi d'assalto da gruppi estremisti israeliani al grido di morte agli arabi, è stata palesemente smascherata, ecco, e quindi non si poteva più dire che no, le università israeliane sono un modello di libertà, come viene ancora detto, ahimè, la democrazia israeliana è un fiore all'occhiello perché è l'unico stato democratico del Medio Oriente. E quindi diciamo, in questo libro comunque la data del 7 ottobre 2023 viene tenuta in considerazione, viene considerata importante proprio per quello che ha fatto emergere. Magari adesso sentiamo ancora un po' di musica e poi proseguiamo nella riflessione. We'll be right back. La mia condizione di cittadina bianca ebrea israeliana mi ha permesso di accedere agli archivi e alle biblioteche statali e militari israeliane, consentendomi di visionare i documenti politici ufficiali, appunti di organi statali e militari, rapporti di ricerca finanziati dal governo, giornali, libri di editori accademici israeliani e tesi di laurea e dottorato inedite, approvate dalle stesse università israeliane. Questo ricco tesoro di documenti dimostra, con dovizia di particolari, i molteplici legami delle università israeliane con lo Stato israeliano, compresi i suoi apparati di violenza. Esso offre abbondanti informazioni sulle teorie, le competenze, le infrastrutture e le tecnologie sviluppate in seno alle università israeliane o attraverso di esse, a sostegno dei progetti territoriali, demografici e militari israeliani. Tali archivi, tuttavia, sono quasi esclusivamente in ebraico e rimangono per lo più inaccessibili al di fuori di Israele. Questo libro si propone dunque di tradurre, sintetizzare e analizzare criticamente questi dati e ricerche per renderli accessibili alla comunità accademica internazionale nel suo complesso. Il mio status, continua appunto Maya Wind, mi ha permesso di entrare nelle università israeliane e di osservare conferenze ed eventi in vari campus, dove ho potuto prendere coscienza dei termini in cui la retorica sulla Palestina e sui palestinesi si sviluppa e si dipana, e dei modi in cui studenti e docenti palestinesi, nonché ebrei israeliani con una visione critica, si destreggiano nella vita e nella politica dell'Accademia. Ho condotto interviste con studenti palestinesi e docenti palestinesi ed ebrei israeliani, molti dei quali disposti a condividere le proprie esperienze e analisi. Tutti però mi hanno chiesto di non divulgare le loro generalità per paura di ritorsioni, sia all'interno che all'esterno dell'università. Per venire incontro a questa richiesta, nel testo ometto le informazioni identificative e uso pseudonimi ogni volta che cito o attingo direttamente alle interviste. E, allora, questa paura degli intervistati, dei testimoni, è motivata dal fatto che ci sono continuamente minacce, appunto, infamate l'università attraverso i rettorati, ma anche attraverso i gruppi di studenti o altri professori. Chiama la polizia, che arriva solerte, quindi ci sono stati tantissimi arresti, eccetera. Poi sappiamo che in Israele un cittadino israeliano viene incriminato, diciamo, e anche processato secondo il diritto penale ordinario. Un palestinese invece cioè prima di essere incriminato e sottoposto a diritto penale, sì, al procedimento penale, viene interrogato sotto tortura, diciamo isolato, eccetera, a tempo indeterminato dallo Shin Bet, cioè dall'intelligence, e poi viene processato secondo il diritto militare, quindi anche il trattamento è diverso. E c'è questo Israeli Students Union, che è un gruppo studentesco di estrema destra, che appunto denuncia, ha il compito all'interno delle facoltà di denunciare compagni e professori palestinesi, ma anche israeliani dissidenti, semplicemente, anche se semplicemente si sono espressi per un cessate il fuoco. Quindi loro li denunciano e poi parte tutta la li denunciano o li malmenano, ma comunque poi parte tutto il discorso della polizia. E, ci dice Maya Wind in questo testo che la tecnica del silenziamento è una tecnica, diciamo, utilizzata da Israele, in quanto anche Israele è una società che si percepisce in guerra. E nelle università il regime di apartheid e colonizzazione è legittimato e puntellato attraverso ricerche militari in collaborazione con l'esercito, dipartimenti dedicati alle forze armate, laboratori di studio e realizzazione di nuove tecnologie per il controllo sociale e nuove armi, dipartimenti di legge, scienze politiche, storia e filosofia, lavorano poi alla riscrittura e reinterpretazione dei fatti storici e delle regole internazionali. L'università israeliana è sempre stata considerata lo specchio della democrazia israeliana, ma in realtà non è uno spazio libero, è uno spazio coloniale legato a doppio filo al sistema militare e istituzionale israeliano. E poi va detto che come per altre cose, cioè come ad esempio per i sistemi di intelligenza artificiale, come per le tecnologie militari e di controllo sociale, anche ad esempio per quanto riguarda la riscrittura e revisione del diritto internazionale, e Israele fa scuola, oltre che, aggiungo, anche per le tecniche di colonizzazione, tecniche pratiche, materiali, insomma, di oppressione delle persone, dei nativi. Israele, anche per quanto riguarda la teorizzazione del diritto, appunto, fa scuola e vende queste sue esperienze, queste sue pratiche in tutto il mondo, negli Stati Uniti a livelli spaziali, ma in tutte, comunque a tutte le gli stati che hanno diciamo intrapreso in qualche maniera la cosiddetta lotta al terrorismo, ad esempio, e le campagne antiterrorismo, le guerre asimmetriche. Leggendo tra l'altro in questi giorni questo libro, viene veramente spontaneo pensare anche a quello che sta succedendo qua, no, in Italia, con questa il decreto sicurezza, perché anche qui assistiamo a questo elaborazione sempre più, diciamo, stringente di un diritto penale del nemico, di un diritto d'eccezione, no? Diritto penale d'eccezione. Allora, vediamo che cosa ancora ci dice Maya Wind. Il colonialismo di insediamento consiste in una invasione volta all'eliminazione degli abitanti nativi e alle istituzioni di una nazione di coloni sulla terra nativa. I coloni mirano a soppiantare i nativi e a rivendicare il territorio come proprio. Il colonialismo di insediamento quindi è fondato su un dominio sulla terra, che di fatto però diventa dominio sulla vita. Questo insediamento delle terre e delle coscienze costruisce sempre nuovi mondi morali e politici, così come fisici, sopra i mondi degli altri. E viene in mente, se avete presente anche i filmati, insomma, dei coloni in Cisgiordania, nei territori occupati, quasi sempre i coloni si posizionano ai piani alti delle case, no? E dai piani alti delle case dominano la popolazione palestinese e appunto incombono sopra il mondo della popolazione palestinese. Allora, arriviamo a questo per continuare un po' il discorso sul parallelismo inquietante che riguarda anche noi, affrontiamo il discorso delle scienze giuridiche. Israele ha sviluppato un corpus di leggi e interpretazioni giuridiche che legittimano il suo regime militare permanente. Questo processo si è intensificato con l'incremento della resistenza palestinese, in corrispondenza della seconda intifada, iniziata nel 2000, cioè quando i palestinesi hanno alzato la testa, e lo Stato di Israele ha intensificato questo corpus di leggi e interpretazioni giuridiche per legittimare la repressione. Mentre reprimeva con l'esercito i manifestanti e gli insorti, Israele ha iniziato a sostenere che l'uso della forza contro i palestinesi costituiva una nuova forma di guerra che non poteva essere regolamentata dai codici esistenti, definendo questa guerra conflitto armato senza guerra. Israele ha dato forma ad una infrastruttura giuridica che permette di giustificare crimini extragiudiziali, torture e l'uso sproporzionato della forza contro le popolazioni civili. Gli Stati Uniti e gli altri paesi che conducono campagne antiterrorismo e guerre asimmetriche, come dicevamo prima, si rifanno a loro volta alle teorie giuridiche israeliane. E non si può non pensare, ritornando appunto all'Italia, al fatto che in uno stato di guerra, quello che stiamo vivendo, e anche in un momento di potenziali conflitti sociali, anche agiti, anche se da minoranze, magari minoranze, quantitativamente minoranze, ma dal punto di vista della lucidità e della dell'avere coscienza, insomma, di qual è l'obiettivo delle lotte, un aumento di questo di queste rivolte, insomma, contro lo stato di guerra, appunto, ha fatto scattare questa questo progetto di revisione giuridica, anche in un'ottica di annientamento, diciamo, delle voci contrarie al regime. E questa cosa, secondo me, è importante da tenere presente quando si dice, e lo diciamo, insomma, nei cortei, lo diciamo nei volantini, che non si tratta solo di fermare il genocidio e di condannare e di rendere il più possibile pubblico quello che sta succedendo, ma si tratta di combattere contro il colonialismo di insediamento là come qui, e soprattutto di impedire che il modello Israele si affermi, perché appunto il modello di democrazia totalitaria di Israele è in fase di espansione, e sì, anche, insomma, alle nostre latitudini. Questa band che abbiamo sentito, e anzi sentiremo ancora, e tra l'altro avevamo già ascoltato prima, diciamo nell'inframmezzo dell'intervento, è una band inglese, esattamente da Bristol. Loro sono gli Split Dogs ed è una band che si è formata nel 2020. Questo è il loro ultimo album, che si chiama appunto proprio omonimo alla band, ovvero Split Dogs, che è uscito l'anno scorso, però da quest'anno è anche in versione vinile per, diciamo, tutto il resto del mondo. Loro, appunto, direttamente da Bristol, gli Split Dogs. Big man can't look me in the eyes. Big talk, all her errand lies. Big gut from steak and ale pies. CCTV, that was your demise. What an alpha male. Tough walk, what a fucking fail. Tough luck, they threw your ass in jail. Prison bitch, come and lick my tail. Please. They'll accept the charges, cause they wanna see these. Call sex, sex, sex, if you want it from me. 10 quid a minute, you know it ain't free. Eat my sex, pay my checks, tell me you like it. Eat my sex, pay my checks, tell me you like it. Hello operator, collect call please. They'll accept the charges, cause they wanna see these. Call sex, sex, sex, if you want it from me. 10 quid a minute, you know it ain't free. Eat my sex, pay my checks, tell me you like it. Eat my sex, pay my checks, tell me you like it. Negli ultimi 20 anni i dipartimenti di giurisprudenza delle università israeliane hanno favorito interpretazioni innovative delle norme mettendosi al servizio dell'esercito e degli apparati di sicurezza israeliani. A ciò hanno contribuito gli studiosi di etica dei dipartimenti di filosofia che hanno elaborato e fornito giustificazioni morali alle politiche e alle operazioni militari israeliane, sia mentre queste si svolgevano che una volta concluse, in concomitanza con le indagini internazionali che ne sono seguite. Uno dei filosofi a guida di questa operazione è il professor Asa Kasher dell'Università di Tel Aviv, illustre esperto di etica. Kasher si affermò come accademico al servizio dello Stato nel 1994, quando collaborò alla stesura del codice etico dell'esercito. Quando questo dovette essere aggiornato, Kasher venne affiancato dall'esercito e da filosofi e giuristi delle più disparate università israeliane. Il documento rivisto, intitolato Ruach Tzahal, Spirito delle forze di difesa israeliane in ebraico, è stato adottato ufficialmente dall'esercito ed è concepito come summa dei suoi valori fondanti e guida etica per i suoi comandanti e soldati, con tanto di applicazioni concrete. Sulla base del Ruach Tzahal, Asa Kasher ha avviato una lunga collaborazione col maggiore generale Amos Yadlin per offrire all'esercito un manuale etico. Nel 2001 il Dipartimento di Diritto Internazionale dell'Esercito ha emesso un parere legale che regola la nuova politica israeliana degli omicidi mirati. Poco dopo, nel 2002, Kasher e Yadlin si sono uniti a una commissione di accademici e avvocati militari per formulare delle norme in materia. Secondo quanto riferito, i membri della commissione hanno discusso su quale sia il numero eticamente accettabile di civili palestinesi da poter uccidere nel tentativo di assassinare un palestinese considerato da Israele come un miliziano, al fine di salvare la vita di anche un solo cittadino israeliano. Le risposte variano da 0 a quanto basta. La media calcolata dalla commissione è di 3,14 palestinesi civili per un israeliano. L'Università di Tel Aviv si è offerta come punto nevralgico di questa strategia militare e innovazione giuridica. Studiosi e personale di alto livello degli organi di sicurezza lavorano in sinergia allo sviluppo e alla pubblicazione di pareri di carattere giuridico per il governo e l'esercito. Lo stesso generale Yadlin è stato nominato direttore dell'istituto, per cui per oltre un decennio ha supervisionato il lavoro sulle linee politiche e pubblicato tesi giuridiche che sviluppano la dottrina antiterrorismo. Sulle riviste pubblicate, Kasher e Yadlin hanno avanzato ulteriori giustificazioni sul perché il punto di partenza della loro dottrina non sia il diritto internazionale. Sostengono che le concezioni tradizionali sulla natura della guerra e su come essa possa essere limitata non si applicano alla guerra al terrorismo di Israele. Kasher ha persino proposto una nuova categoria per ovviare alla distinzione legale tra miliziani e civili, coniando il termine popolazione terza, in riferimento al popolo palestinese, ossia persone che sembrano civili ma che possono potenzialmente interferire con le operazioni militari. Sì, questo era un brano appunto una lettura dal libro Torri d'avorio e d'acciaio, come le università israeliane sostengono l'apartheid del popolo palestinese, di Maya Wind. E a proposito di questa categoria di popolazione terza, praticamente dove porta l'elaborazione di questa categoria? Porta a una gerarchizzazione delle vite umane, naturalmente, e in pratica lo Stato di Israele sostiene che è in base a questa teoria della popolazione terza, e quindi di palestinesi che sembrano civili ma che possono potenzialmente interferire con le operazioni militari, per lo Stato di Israele è immorale mettere in pericolo i propri soldati dell'IDF per salvaguardare le vite dei civili palestinesi. Per questo loro, quando fanno gli attacchi, prima fanno i bombardamenti mirati e poi fanno le invasioni di terra, perché facendo i bombardamenti mirati mettono al sicuro le truppe che poi fanno, mettono più al sicuro, rischiano di meno le truppe che, per le truppe che poi fanno l'invasione di terra. Allora, un'altra cosa emerge da questo libro: governare tutti i territori, ci dice l'autrice, sotto controllo israeliano richiede una stretta collaborazione tra esercito, polizia nazionale e Shin Bet, cioè intelligence. Va considerato che un quarto della polizia presta servizio nella Magav, cioè nella polizia di frontiera israeliana, che è nata come un'unità militare ed è composta per oltre la metà di soldati di leva. Ricordo che in Israele tutti devono fare la leva, cioè non mi ricordo se comunque mi pare addirittura tre anni la leva, per dire quei disgraziati maledetti dei giocatori della squadra israeliana, loro sono proprio dei militari, cioè hanno fatto firma non per tre anni, ma fanno parte dell'esercito, perché se vuoi far parte della nazionale devi essere dentro la struttura militare, cioè far firma nel senso di essere proprio un militare. Comunque tutta la popolazione, sia maschile che femminile, forse la popolazione femminile fa un servizio di leva più breve, ma comunque tutti fanno la leva, cioè stanno molto tempo nell'esercito e vanno, appunto, vengono mandati nei territori occupati, quindi non è una leva così simbolica, è una leva specifica di guerra. E appunto un quarto della polizia nazionale presta servizio nell'esercito, quindi praticamente c'è una porosità, diciamo, tra le varie istituzioni militarizzate e di polizia, cioè tra la polizia, l'esercito e lo Shin Bet, cioè l'intelligence. E a questo proposito va tenuto conto anche rispetto, ritorniamo all'Italia, anche da noi non c'è più la leva obbligatoria, però la maggior parte dei soldati, cioè c'è la leva volontaria, ma va tenuto in considerazione che chi va a fare il militare, i militarazzi che si vedono in giro, poi dopo hanno una carriera nella polizia, di solito approdano a una carriera di sbirri. Quindi la polizia è fortemente militarizzata, perché le persone che fanno la leva volontaria vanno anche all'estero, vanno anche nelle missioni, cioè quindi vanno anche in condizioni, diciamo, in paesi in cui c'è la guerra, no? Quindi vanno a fare la guerra. E quindi c'è questo travaso dall'esercito alla polizia, quindi non è che la polizia sia esente da questa spingere il piede sull'acceleratore della militarizzazione della società. Anche questo teniamolo ben presente quando parliamo dei nostri paesi, non solo degli stati in cui ci tocca di vivere, non solo, appunto, degli altri. Stiamo ascoltando questa band inglese, band diciamo tra, insomma, le prime band, primi anni 80 inglesi, ovvero questi Chaotic Disorder, e dal loro album datato 1983, la band si era formata l'anno prima, questo appunto album dal titolo Fuck Religion, Fuck Politics, Fuck the Lot of You, Chaotic Disorder. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us each day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forget those that trespass against us. And lead us not in temptation. I all forgot the words. Sì, continuiamo un po' con questi così pensieri sulla cosiddetta società civile dello Stato di Israele e anche sulla guerra ai migranti, e ci spostiamo proprio su questa faccenda, cioè diciamo partendo dal discorso della militarizzazione del confine labile tra i vari corpi militare, di polizia, eccetera. Arriviamo anche a questa cosa della guerra ai migranti. Allora, attraverso altre due letture, una casuale, cioè di un libro edito dalle edizioni EO, un libro di Dror Mishani che si intitola 3, che ho trovato non so dove, è un libro di narrativa, addirittura quasi un thriller, diciamo, cioè c'è una questione di un assassino seriale, però è un libro, leggendo sulla quarta di copertina, per mesi in testa alla classifica dei best seller in Israele, serie TV in preparazione, un libro del 2018, quindi non è, insomma, non ha tantissimi anni. E leggendolo così mi ha incuriosito questo discorso di in testa alla classifica dei best seller, e così mi sono messa a leggerlo, e in effetti è significativo perché appunto è ambientato a Tel Aviv e c'è continuamente sullo sfondo questo discorso della leva, perciò sono continuamente riferimenti, insomma, a dove le persone hanno fatto la leva, a quando hanno fatto la leva, appunto quando sono stati nei territori occupati, eccetera. E appunto la storia è, come dicevo, è la storia di un assassino seriale, che però non è una persona qualunque, è un avvocato che traffica in sì, cioè dico chi è l'assassino perché comunque non viene subito, anche se volete leggervelo, viene subito svelata questa cosa, non è quello il punto, diciamo, l'interesse del testo. È appunto un avvocato che ha dei traffici di permessi di soggiorno, documenti, eccetera, con i paesi dell'est, con alcuni paesi dell'est, Romania, Bulgaria, eccetera, forse anche Ucraina, non mi ricordo. E appunto in tutto il testo, cioè il testo a me ha colpito perché c'è una violenza sottile, come una violenza incorporata, non so come dire, intrinseca, implicita nelle relazioni, e anche una spersonalizzazione nello stesso tempo anche delle appunto delle relazioni e dei sentimenti, insomma, legati alle relazioni, ed emergono, e c'è la storia, una delle donne che viene fatta fuori è proprio una donna di riga che è in stato di Israele e si trova a Tel Aviv in quanto lavora come badante, se non che la persona per la quale lavora viene ospedalizzata e poi viene a mancare. Lei è molto legata, molto affezionata a questa persona e in generale, insomma, a questa persona, a questo uomo e a sua moglie, e si ritrova però poi a perdere il lavoro, quindi insomma a ricadere in una situazione di precarietà totale, per cui deve accettare un altro lavoro, insomma in una spirale, diciamo, di difficoltà sempre crescenti, e incappa in questo pezzo di merda, scusate il francesismo, che poi insomma le fa fare una brutta fine. Ma sì, ad esempio emerge da questa vicenda, diciamo, esistenziale di questa donna che si chiama Emilia, emerge questo, il fatto che lei col nuovo datore, mentre i datori di lavoro precedenti cercano di insegnarle l'ebraico, insomma c'è un rapporto autentico, diciamo, e reciproco, c'è una reciprocità. Difatti l'uomo con cui lei lavora le apparirà come lei lo vedrà anche dopo morto, anche nei momenti così, però lei non saprà cogliere, diciamo, il messaggio di allarme che lui le lancia. E con i nuovi datori di lavoro c'è invece questo rapporto molto duro, di proprio di utilizzo, diciamo, di molto mercantile. E difatti lei si troverà anche nella condizione che il datore di lavoro le sequestra il passaporto, accusandola di un furto, per evitare che lei possa andarsene, le sequestra il passaporto, quindi una roba. E poi c'è questa, diciamo, dopo la sua morte, insomma, chi indaga sulla sua morte va a intervistare, si è interrogare anche gente che potrebbe averla vista, E una di queste testimoni dice: una volta le ho chiesto, dice sì che l'ha vista, una volta le ho chiesto se fosse disposta a fare le pulizie anche a casa mia, perché alla donna che lavorava per me avevano dato il foglio di via, ma lei non ha voluto, Emilia appunto, non ha voluto, quindi non è andata a lavorare, e per questa qua che sì, che non si è, cioè a me aveva colpito questo discorso di la donna che lavorava per me ha avuto il foglio di via, quindi non ho più nessuno che mi fa le pulizie, quindi ho bisogno di qualcuno che mi fa le pulizie, chiedo a una persona che altrettanto ricattabile, altrettanto costretta, diciamo, ad accettare qualsiasi condizione di lavoro. E questo fatto del sistema, insomma, di sfruttamento, soprattutto dei lavoratori, delle lavoratrici, perché poi sono quasi tutte donne domestiche, si basa su un sistema che si chiama kafala, un sistema che vale un po' in tutto il Medio Oriente, un metodo, diciamo, poi vi dirò meglio, ma Israele, appunto, con questa sua roba del diritto evoluto, l'aveva abolito nel 2006, è stato abolito questo sistema, che è una specie di, diciamo, contratto, lo chiamano sponsorship, potrebbe essere l'equivalente dello sponsorship in inglese, per cui un sistema che vincola, dopo vedremo meglio, vincola fortemente la lavoratrice e il lavoratore. E appunto la Corte Suprema di Israele l'aveva abolito formalmente nel 2006, in verità chiaramente ha continuato a essere in vigore, e comunque anche legalmente continua a funzionare per i lavoratori domestici. Questi lavoratori domestici sono vincolati con questo, appunto, sponsorship a questo kafel, che è il loro padrone, letteralmente il loro padrone, e praticamente anche la residenza, quindi la possibilità di abitare in un luogo, è legata strettamente a questo contratto di lavoro, per cui se questo contratto di lavoro viene a mancare, si perde anche, le persone perdono anche il diritto di essere residenti in quella città, ad esempio, e quindi finiscono per diventare clandestini, e quindi per finire nei campi di detenzione, e quindi per essere deportati. questo così questa questo sistema, questo metodo, non so come chiamarlo, kafala appunto, è in vigore anche in Libano, e qui arriviamo, cioè continuiamo con il discorso della dell'esito, degli effetti che il colonialismo di insediamento e lo stato di guerra permanente portato avanti dallo Stato di Israele ha su vaste su tutte le popolazioni che ne vengono toccate, cioè arriviamo al Libano, no? Perché in ottobre, insomma in settembre, a fine settembre sono iniziati questi bombardamenti sul Libano, siamo già a 1 milione di sfollati, e ci sono questi ordini, queste robe devastanti, questi ordini di evacuazione che Israele manda, no? Risultato appunto 1 milione di sfollati che lo Stato del Libano non sa neanche dove bene un po' come piazzare. Comunque da un minimo di tutele, diciamo, sono esclusi completamente tutte le persone, sono escluse che non hanno la cittadinanza del Libano. Quindi tutte le lavoratrici, i lavoratori, e ce n'è molti, che vengono prevalentemente da Sri Lanka, Filippine, Etiopia, Bangladesh, Camerun, Kenya, Madagascar, sono costrette, che abitavano diciamo con i loro kafel, oppure no, oppure se non fanno questo tipo di lavoro domestico per fatti loro, hanno perso la casa e sono costrette a vivere alla diaccio, vivere nei parchi se va bene, oppure fuori dai palazzi, insomma, amministrativi, cioè nei luoghi dove si sentono meno insicuri, ma questa è la loro condizione. Quindi cioè come se, diciamo, perché appunto questo tipo di rapporto anche di lavoro e di legato alla residenza essendo un rapporto utilitaristico, cioè praticamente le persone che vengono da altri paesi sono considerate merce, e quindi finché c'è bisogno di loro, ok, poi dopo quando o in momenti di emergenza, come sono questi qua dei bombardamenti, perdono completamente qualsiasi tipo di umanità, non vengono più considerate come esseri umani. Tra l'altro questo diciamo sistema del kafala è un sistema di leggi, ma soprattutto un sistema di pratiche che vengono gestite, diciamo, dal corpo di polizia che difende i confini libanesi. E c'è tutto il discorso poi dei rimpatri, no? Dei cittadini, perché appunto con i bombardamenti c'è questo, si è messa in moto la macchina dei rimpatri, e chi può permettersi paga i rimpatri con mezzi propri, oppure si rivolge alle ambasciate. Chi invece non ha mezzi propri non riesce a farlo, e comunque c'è sempre di mezzo questo discorso della coercizione, insomma della vita appesa a un filo. Sì, a me viene da dire, insomma, che questa qua è come dire un palese esempio, una conferma, cioè una conferma totale del fatto che la ragione di Stato e gli stati sono sempre contro le persone, cioè non può essere diversamente da così. Non può essere diversamente da così, come dire, la storia lo insegna. Sì, insomma, questa cosa comunque della guerra ai migranti e della guerra ai migranti è una la guerra ai migranti non è non viene anche qui non è solo una questione di Medio Oriente o di questi paesi, insomma, ma la vediamo anche da noi, no? E la vediamo da noi in maniera anche qui sempre più efferata e perfezionata. A me ha colpito ad esempio in questi giorni il discorso di questa Libra, questa come si dice, nave militare, poi, no? Però che ha un tessuto le lodi perché era nelle missioni internazionali di protezione internazionale, eccetera, è stata utilizzata per portare in Albania i primi 16, le prime 16 persone, i primi 16 uomini, perché possono essere solo uomini, appunto, che non hanno diritto a rimanere qua, ma vengono deportati in Albania. E la maggior parte dei media mainstream parlano di soldi, no? Ci costa un casino trasportare, hanno speso un casino di soldi per trasportare 16 persone, poi delle quali 4, non mi ricordo quante, risultavano minori o ammalate, o portatrici, insomma, di qualche malattia, perciò non possono rimanere là. Cioè, come non viene, è come se ci si abituasse anche a questo fatto della deportazione in un altro, della esternalizzazione della detenzione amministrativa, di questa roba devastante, insomma, aberrante, e questa forma di tortura che è la detenzione amministrativa, anche questa ereditata da Israele. Ma questo fosse già entrato un po' nell'abitudine e si passasse già al discorso di nuovo al discorso dei soldi, quanto costano. Sì, è un segno di... Sì, è un brutto segno, insomma, un brutto segno di alienazione, cioè, sì, anche di imbarbarimento, ma imbarbarimento non mi piace, perché non è che i barbari sono barbari. Quanti barbari? Bordiga? Ecco, ok. Io l'ho fatta lunga, adesso mi fermo. Volevo solo dire questo perché l'ho nominato. Il terzo libro era un fumetto che del 2008, una bella graphic novel curata, ben scritta, eccetera, che è Fattoria 54 si chiamava, e anche questo una roba devastante che leggendolo si sta male, cioè fa soffrire. Cioè, fa arrabbiare, ma fa soffrire, ti inquieta molto. Ed è la storia di Noga, una giovane israeliana nata negli anni 70, che abita un piccolo villaggio non distante da Gerusalemme. E questo fumetto racconta la sua storia della sua adolescenza, è una specie di diario personale, dove lei, appunto, è quasi, diciamo, osserva la sua vita quasi dall'esterno. Attraverso vari episodi, tutti di una violenza abbastanza sottile ma pesante, e fino all'epilogo del servizio militare nei territori occupati, che conclude, diciamo, il suo processo di iniziazione, per così dire, dall'infanzia fino all'età adulta. Lascio la parola a regia e poi anche altri interventi. Thank you. Ecco, ciao a tutte voi, tutti voi che ci state ascoltando per questo giovedì 17 ottobre. Forse non abbiamo ripetuto di questa puntata di Zardins Magnetics che sta andando a concludersi. Sono infatti quasi 21:25 minuti di questo giovedì sera. Io voglio solo velocemente darvi appuntamento alla presenza che ci sarà dopodomani, sabato, quindi 19 ottobre, qui a Udine, per chi appunto abita nelle vicinanze, un presidio che abbiamo chiamato insomma come assemblea permanente contro carcere e repressione, in solidarietà di certo ai detenuti in lotta. È un carcere che ha un percentuale di sovraffollamento del 140%, cioè al 30 settembre su su una disponibilità di posti, diciamo così, di a capienza, si chiama, di 95 posti, ci sono 180 presenze, di cui oltre la metà stranieri, in questa galera udinese. A me viene da pensare, friulana, a me viene da pensare che non è, diciamo, anche del tutto un caso che venga riempito, insomma, lo spazio di detenuti, di uomini. C'è anche una, secondo me, un'intenzione per dire, oltre che afflittiva, ma c'è anche un'intenzione di dire non si può fare altro che costruire un altro carcere, perché qua non abbiamo più posto. Comunque, di là di questo, noi faremo questo presidio sicuramente, insomma, solidarietà con le coi detenuti in lotta, ma anche con le loro persone care. In quel carcere lì, solo partendo da maggio, arrivando ad agosto, ci sono stati 44 episodi di resistenza di vario tipo, di protesta, e anche una protesta collettiva, combattitura. Diciamo, le autorità stesse dichiarano che nell'anno, adesso non so ben dirvi come hanno preso, insomma, nell'anno precedente, o insomma, o questo corrente, loro hanno registrato un numero di eventi critici, cioè autolesionismo, uguale a 72 casi di autolesionismo nel carcere di Via Spalato, e un caso di suicidio, che questo credo che sia del 2023, se non sbaglio. Tentati suicidi sono numero pari a 8, eccetera eccetera. La situazione è veramente drammatica, e senza, insomma, grandi vie di uscita che non siano la lotta. Non sono certo le soluzioni quelle escogitate dai magistrati o ex magistrati che si adoperano per ristrutturare gli edifici, anche perché si scopre, tra l'altro, guardando questa scheda a cura di Antigone, si scopre che vengono fatti lavorare tutta questa popolazione, che, ripeto, sono di solito detenuti in attesa di giudizio, oppure con pene comunque detentive inferiori ai 5 anni, quindi sono sempre di base disgraziati, ecco, con reati, con pene di solito reati contro il patrimonio, detenzione di sostanze, furti, eccetera, insomma, ladri galline, insomma, parlo della maggior parte. Questi, quelli che vengono, la cui domanda di lavorare, diciamo, di svolgere attività lavorative, viene accordata, vengono messi a lavorare nel cantiere interno di ristrutturazione. Quindi cioè, c'è un numero di persone, lavoratori detenuti in Via Spalato, in entità esterne all'amministrazione penitenziaria, uguale a zero. Invece circa una cinquantina, dichiara Via Spalato, circa una cinquantina lavorano, vengono fatti fare i corsi, naturalmente, manutenzione, pittura, eccetera, insomma, di edilizia, ma vengono messi a lavorare dentro, così si risparmia anche sui lavoratori. Va bene, questi e altri motivi, ma soprattutto, dimenticavo, forse ne abbiamo già parlato, per dare risalto a quelle che saranno le legislazioni contro i detenuti, che sono contenute nel disegno di legge sulla sicurezza. promosso dall'esecutivo Meloni, e quindi ci sono varie tipologie addirittura nuove, le dico velocemente perché siamo in chiusura, il reato di rivolta, c'è il reato di resistenza passiva, insomma vengono aumentate quantitativamente il numero di anni di pene previste, eccetera, insomma istigazione a disobbedire alle leggi, aggravati, tutta una serie di inasprimenti che sicuramente i detenuti non sono, a cui sicuramente queste notizie i detenuti non vengono date dall'autorità, dall'amministrazione penitenziaria, quindi noi andremo fuori dalle mura con l'impianto, con microfono aperto, ma anche per dare queste, diffondere questi cambiamenti che ci saranno, queste nuove prospettive di repressione, per fare in modo di essere alleati, diciamo, contro questo disegno repressivo. E quindi appuntamento, ripeto, alle ore 14 e fuori dal carcere, il solito luogo dove ci mettiamo, insomma tra via Zara e via insomma, comunque adesso mi sfugge, non vorrei sbagliare, comunque retro, non l'ingresso, comunque ecco, ci trovate lì sabato 19 ottobre in solidarietà ai detenuti. Bene, siamo in chiusura con questo programma Casalis Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi giovedì 17 ottobre, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì. Vi ricordo che il brano che ascolteremo adesso, e che comunque abbiamo ascoltato tutto il tempo durante l'intervento, fanno parte di un album uscito nel 2020 da questa band, che è una band, un progetto nato una quindicina d'anni fa, ovvero Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Make them suffer. Yeah.